Il punto di Stefano Folli. È vero che il commissario europeo Olli Rehn è l'arcigno portatore di cattive notizie, il tradizionale interprete della linea più intransigente verso l'Italia. Però il problema da riposto esiste e rappresenta per il governo la vera sfida. La questione del debito pubblico, che continua a crescere a una velocità ben superiore ai timidi tagli di spesa programmati. E questa crescita è tanto più impressionante quanto più l'economia continua a ristagnare, appesa a una ripresa troppo fragile e incerta. Ora il nostro Premier sa quello che l'Europa si aspetta da lui, la capacità di aggredire un debito pubblico insaziabile, un coraggio innovativo senza precedenti, il che mette Renzi in contraddizione con se stesso, perché l'ex sindaco vuole piacere a tutti, cerca il consenso e addirittura, lo abbiamo visto ieri, non disdegna un nascente culto della personalità. Tutto ciò rischia di apparire anacronistico, perché la campana di Bruxelles indica che le riforme, quelle vere, potrebbero essere molto dolorose, a meno che dalle prossime elezioni esca un Parlamento europeo molto diverso da questo a guida tutta tedesca.